chi è avanti? Antonio sono, buonasera. Ciao Antonio, ciao, buonasera anche a te. Gappa, lasciamo vedere che faccio la gira a Duchiccio. Gappa, sempre Duchenni, sì. Poi vanno a Natalia a vedere. Che cosa ha manipolato qualcuno? A voi è giusto. Mamma mia, questo... mi ha toccato lui l'altro giorno. Così ha toccato il tunnel, un coso. Ci ha preso il cartone, mi ha fatto un poco. Cazzo, ma gli giocatori dico che devo chiudere, boh. Aspetta un attimo. Ok. Ecco qua, già fatto. Ma cazzo, qua non ci sta più entrando nessuno, non ci sta più entrando. Io ero fuori questi giorni, ero fuori, molti giorni fuori. Già lo so, perché se entrava qualcuno a fare qualche discorso mi avrebbe fatto compagnia, sono sempre da solo qua. Stasera era dolori furtimi, adesso mi stanno passando appena appena, ma dolori voci di morti. Ti capisco già. Sì, adesso che c'è posso, ti posso dare una mano adesso, se sono libero sempre. Ti posso dare una mano io se sono sempre libero. Sì, vabbè, non è per quello, no, è per farmi compagnia quando sono solo qua, che è un casotto. Adesso il giorno 9 devo andare a fare la visita per il dolore, per la terapia del dolore. Almeno non ho i dolori, sennò non si può resistere tanto, è una cosa che non veniva a dirlo. Capo, se sono libero ti posso accompagnare io. No, già ho già avvertito un amico che viene a pigliarmi. Così mi accompagna. Faccio questa visita e poi lo richiamo io a venire, no? Perché gli dico di andarsene lì, intanto bosteggiano venenti lì. Quando finisco la visita gli dico a venire a pigliarmi. Andiamo io, mia moglie e un altro amico mio che mi mantiene, sai che cado, capito? Non si sa mai. Mia moglie tiene la borsa con tutti i documenti. E quest'altro amico mi sorregge, lo sai che cado. Capa. Madre mia, cura una coppia, a che giugende. Non fare macello, Gabri. Naga, non va, se non fa di peggio. Gabriele. Tutto contento, sta zinzolando. A lui piace il suo triciclo che lo tira con le gambe, è più manuetto che lo triciclo. Dimmi tu. Dio lo mantenga. Ma vuoi trovare qualcuno? Ho gente di fuori. Io se ho messo lo squelch per togliermi il coso, il QRM, se no manco un QRM e boh, senti in via, che se no mi non entra nessuno, intendi che usci. Almeno quelli di vicino già li sento. Arrivano forte, mi apro un QRM, capito? E c'ha vedere a proposito di coso. Allora, i matti sono quelle. Salve. Che sto regolando. Oh, sempre perfetta, Gappa, andà bene veda. Voglia, chi su che Gesù fece oggi manca i cani, guarda. Gesù. Cavolo, ti posso capire, ti posso capire. Fa di male, guarda. Ma che andava giù busta, chi c'ha sempre perfetta, cazzarola, non pensavo che era che andasse così bene. Già vabbè, già non vanno bene quelle radio, qui, a voglia. Che c'ho questo catetere, che cazzo dirà, dirà, non puoi va, nuda, non puoi va. Me l'hanno messo al pronto soccorso perché sennò stavo sempre urinando sangue. Allora mi hanno messo questo catetere qui, perché sennò guai, ogni anno ero pronto al soccorso di sciate. Beh, non si può fare nulla a Natalia, risolvo il problema. No, no, finché non lo devo tenere fino al giorno 27. Il 27 me lo tolgono questo e me ne metteranno un altro fino all'operazione. Finché non mi operano me lo tolgono, no. Mani d'opera a settembre. Si preme venga in presa, non ne busso più. Dai, dai, che sta finendo agosto, piano piano. E ti operano, no? Non stai meglio? Il giarugrito. Uia, mamma mia. Ah, scusate, Cri, ce li ho lo stesso i dolori, non è che mi siano passati. No? Mi ho pigliato pure un antidolorifico, ma chissà roba, non fa nulla. Devo fare quello che il giorno 29, il giorno 9 devo andare. Venari, venari, devo andare. Ti vuoi vedere. Dai, piano piano poi già si risolve il problema. L'importante è che non sei più come te prima. E infatti, non si bussi, non si bussi. E piano piano si va. KK. Uia, carta la dice tanto in linea, va. Ero sempre in bura, ero. Sempre alla riera, sempre in giro. E infatti, quando uno è travagliente, non veniva di là. Gesù. Uia, va. Ma se c'è travagli, il burro sono qua conto mio. Cioè, me li faccio da solo, non ho più bisogno di nessuno, ho capito. Per l'altro giorno mi è capitato di andare alle bombole, mi sono fatto una mezza mattinata e mi l'ho fatto tutto io. E infatti vedrà che cosa in più. Infatti. Poi allora vai la patente pure, poi buccia pure la macchina. Sì, sì, sì, poi essendo un autocarro, tutti gli autocarri, tranne le macchine di grossa cilindrata, fino a un certo limite di massa, non posso buttare ancora. Però quelle più, cioè tipo gli autocarri tutti, quindi non ho problemi con quei mezzi lì, non ci sono limiti di cilindrata. Ho fino a 35 quintali è appeso, fino a 35 quintali lo puoi portare con la B, qui dei limi, qui Ducato, quelli puoi buttare tutti lì. Oh yeah. Poi ripucciante puoi pucciare la macchina, lo manco di puoi pucciare. Macchina non ne hai, no? Ma la sto cercando una, la sto cercando. Piano piano me la prendo. E mi hanno dato anche, mi hanno dato la M e la B. La M per guidare quella moto che ho, il ciclomotore. Perché adesso funziona così, ti danno anche quella, ti danno. Per guidare quelle 50. E poi c'ho la B, fino a 125, 11 kW in Italia, posso guidare con la moto. Io ho capito, io c'ho la A e la B, perché le altre me le ho fatte prendere, perché intanto non le usavo, cosa me ne facevo, me l'ho fatta declassare alla B. Però la macchina se ne ridendi, a chi non la so cubigliendi, che cosa va? Se non so vicendo di gas, va giù c'è cosa di rottiro, attaccata, Gesù Cristo mio. Lo so già. Sì, se capita che vuoi che me la piglio io, qualche giorno, li posso fare un giro. E cosa esci con questo coso? Esco solo per le visite e bummi. Sono annoiato, cazzo, perché non sa cosa fare più. Adesso meno male che c'eri tu, almeno una chiacchierata così. Ma anche se entra gente, io magari sto all'ascolto, se non ne ho voglia, che ho i dolori, e ascolto. Invece non entrando nessuno, cazzo. Già lo so, Natale, purtroppo non ci sono io. Se no, già usa che la sera è sul primo occhio, dove vado? se non sto lavorando, sono a casa, poi sono col bambino, sono e via. Sì, infatti. E quando sta lavorando, chi te lo tiene? Tua sorella o tua cognata? Sì, con chi lo lascio? Chi è che vuole entrare avanti? Se no la qua voleva entrare. Ciao a tu, sto facendo cosa, ciao ciao. Ciao, ciao ciao. E dai la benedizione, tu, dai la benedizione, drommi. Quello non risponde al telefono, pretende che lo risponda nel radio, quell'altro maniaco. E chi è che non risponde al telefono? Tu, Varu, messaggi a noi, vocali, scritti, però andiamo a andare a repundi. No Luca, mi devi scusare, ma il telefono ce l'ho qua, ce l'ho. E ci sono bucato come ti posso, e poi non ne ho sentito di messaggi. Non abbai domani il telefono, lo tratto solo se devo telefonare. Che non lo vedo Gadurori, non riesce a far nulla. Ci sono anche, c'ho anche il cattetere fisso. Non mi sa cosa di rotirono, poi fa nulla, no, Luca. Il cattetere sinceramente non esabbia nemmeno, anzi addirittura se mi vi tiro operato che era tutto a posto. Allora ci dobbiamo un cattetere, se manca un sì. Mi devono operare a settembre. A settembre mi devono operare, adesso il giorno 9 devo andare per la terapia del dolore, perché non ce la faccio più a resistere questi dolori. Ah, ma stavolta ti devi operare. Cioè, pitta. Ma te l'hai già operato, come sei passato? Ehi, mi devono operare a settembre. A Roma con i ravinimo, un chissà cosa, mamma mia. Hanno fatto praticamente una biopsia, e praticamente devono operarmi torna a settembre. A settembre mi operano e dovrebbe finire tutto così. Io sapevo che avevano operato già con le parti basse, non so cosa avevi. E via, la gabbia, biopsia, cazzo che si hanno fatto a me. E via, per carità, che mani, ti sono passati da un good e mi hanno toccato un erbo di luci, cazzo di brigato un assuccio, un dolore, quindi menina. E cosa vuoi che ti dica? Più di chi sui saputo puzzendi, Luca. Oh, yeah. Ti senta il telefono, io. Oh, il telefono è nobile, sempre impiegato. La Sadia addirittura mi ha telefonato un amico e non l'ha già inteso, ma cosa si è disattivata la suoneria. Praticamente io non l'ho sentito quando mi ha telefonato. Me ne sono accorto dopo, quando sono venuto qui, ho guardato c'era la chiamata di questa persona. E l'ha già telefonato, ma tu mi rigiamenti così. C'avevo la suoneria che si è disattivata da sola, perché io non ne ho toccato. Capita. Per quello non ti ho mandato più niente. Intanto ho detto, se non rispondi, io ti continuo a mandargli messaggi, a mandargli le cose, informazioni, che ogni tanto rivedi, la coscia, ma non mi rispondi. E allora non te ne ho più mandato. Vuol dire che non vuoi essere disturbato. La carriola come sta andando? Boh, Antonio è tornato in cantieri, senza carriola. Beh, è giocando, gioca lui, gioca, è tutto completo. Ehi, ma tanta roba che è ancora in soffitta, tu non hai un'idea. Allora, dopo siamo cagliato, te ne parlo un altro blog. Se cacca che c'era picchente, ma dimmi tu. Ma cammina già, Antu. Ora a me anda. A me, chi su curricumento macco? Devo stare attento perché ne combina di tutti i colori. Sì, infatti. A che devo fare sempre, vuoi giugare? Questo è un'età molto delicata, bisogna stare addosso, a che sono curiosi, andano a toccare pesi, andano a toccare cose, veramente 16 anni di didi, molto delicato, non li devi stare sempre addosso, anche come ti pari di radananzi sei buttito. Chiso deve stare attento, tocca a tutto, tocca. Vabbè, ridentimi. E cosa stai sperimentando? E che tutti così sono minore, mi hanno così so, vuole educare tutto, vuole educare. Infatti devi stare un bel attento a vedere cosa tocca, non si sa mai. Ma un attimo, andrà a cosa? Ormai da Natale cosa faccio? Vabbè, già un bel po' di mesi ormai. Sta roba. No, la cumpleia ha comparato qua. Ma tu cazzo! Mi ha sorcolato un goccio con il ventilatore. Ma tu caro pulsante, mamma mia. Ma tu le devi capire in italiano. In italiano gli devi dire le cose. Non so salire. Io non mi posso più. Sei buona tu che pulsanti, mi scuola il ventilatore, mi è tutto. Attenzione, non si può cagare un po' del ventilatore, mi ha tu. Che le dita si passano in mezzo alla chissà griglia. No, no, no, quello no, quello già. Pure un cucino me ne ha lampato ma protesta. Ah. Mi disse, aveva comprato un ventilatore tutto elettronico, del cavolo. Cioè, vado a punire le mosche, non funziona più. Ah, va a tirare un po' tutto, è innamorante. Meglio il manuale, quello che ho io, questo è buono. Ne ho comprato uno, ecco, 50 euro, ma se li vale tutti. E cosa? Ventilatore. Ora ti mando, visto che quello che portate le... che ho io. Questa è una, guarda, una bellezza, Ma perché su chi la faccio io è buono, E mi ha trovato torna un pulsante. Ah, prendi un pulsante, corri! Madonna, oh! È un brigantino quel Gabriele. Ecco, adesso l'ho messo dentro, piangi adesso. Ma io non mi devi trovare un pulsante. È una scena qua, veramente. Adesso l'ho messo dentro il coso dei giochi. A me non lo so più. Ma se non cosa devi andare, tu devi suonare un pulsante. Mamma mia. E tutto tocca, non venuta di qua. Sono, hanno fame di conoscenza, capite? Quindi toccano tutto. Invece se no rimane arrabbiato. Brutto monello che non sei altro. Mi torra, c'è delle gombine di tutti i canti di curore. Te ne combina, è allucinante, mica il caccia in chiave, madonna. Ma fa la casa per i gandrimi. E poi questa è la foto. Ma cosa stai dicendo? Questo che metti la lore, chi su, non tu, tu via. Quello che gli metto l'acqua. La temperatura ambiente, oppure li metto i ghiaccioli, ma il climatizzatore, lo zucchero di bene. Quello veramente sostituto dei ventilatori. Ventilatori, ma non metti girare l'aria dell'ambiente. Che sono proprio più fredda. Ecco, c'è tanto un ventilatore. Ma chi sei buono? Chi sei buono? Mi amore. Lascia stare quello, non ti interessa. Non toccare un pulsante, madonna. Tutto ti tocca, ragazzi, non c'è nulla a fare adesso. Io la settimana me ne compro un altro di ventilatore. Oh, ne ho uno in magazzino, ne ho, Però lo lascio lì perché quando scendo lì si sta bene. Io voglio prendere un altro, bello, però sempre con le pale come questo che ho. Qui c'è una bomba, questo funziona un bel bene. Quello con le palle in alluminio, Io ne aggiungo una pedana ai noghi. Ma non si va un tubo. Gesù, figlio mio. Sapevo tu a che cosa mandare a velo. Vai, falli, comprati uno di quelli che mi torna da sudare. E accendimi il ventilatore, corri! Non è possibile, no. No, non è così. Riaccendilo. Non si toccano i pulsanti. Madonna. Quelli che tu devi prendere, quelli con le pale in coso, in alluminio. Non quelli con le pale in plastica. Mi dà torre da accendere. Perché quello lì funziona ben bene, non ti si arruineggia mai, compreso. Sì, lo so, e chi ci va a comprarlo? Non lo vedi chi, non so chi c'è lì di casa. Questo c'ha le palle in plastica, c'ha, è a pedana, no? Guarda, Biantano è, però, aria ne manda a vedere che fogga. No, chi c'ha uno, a uno ti misureggia tutto. Cappa. Questa è roba seria, è buono, questa settimana me ne compro uno, un altro buono, l'avevo comprato d'accordo, da Aerosmith l'avevo preso, c'erano già 2 o 3 anni, ma impeccabile, non rattindì, mamma mia, una scena, Ma tu sai quel video? Sì, l'ho visto già buffa, ma cosa, come un ventilatore, quelli così lì, cazzo si buffa, va a 3 velocità, già la prima ti viene lo zunto. Quando metti, perché ci vuole l'acqua, finisce l'acqua, ti avvisa, suona e ti avvisa che sta finendo l'acqua, se lo vuoi usare con l'acqua, se non lo usi come un ventilatore, se metti, ripeto, l'acqua con i ghiaccioli non ne va vedendo che è un climatizzatore, poi c'è il timer, va a tempo, poi va all'andare come te di biasi, gira, ruota, su, giù, guarda, una figata. Sì, sì, lo conosco molto bene, quell'affare lì. C'era una persona che già ti dico, siamo stati anche bene la notte. Sì, sì, sì. Poi c'è un ventilatore, io c'ho quello piccolino, proprio quello basso, che non ha la base regolabile in altezza, è proprio fatto così, c'ha il ventilatore e la basetta, io vengo in bagno, sopra la parte c'è, dove immaginare. Vabbè, Natali, visto da quel video? E via. Oh, via, non ne va più bene, muore anche una cannonata, Guarda, sono veramente una cannonata, perché soprattutto per chi non ha spazio, tanto che il tuo bambù sciacca la buca. È super veloce, è una scheggia, capito? Ma che devo girare giù il desktop, se ci posso sopra la mobile, adesso ci teniamo a ragione, non c'è differenza. E lui va via, chi si va più io va via a 14 anni, mi pare, quindi lo sempre andai, ed è sempre andai, ce l'ho qua, solo che non lo sto usando. No, ma questi sostituiscono la grande desktop, capito? C'avevo sia quello verticale che quello orizzontale del desktop. Però, grazie a Vici, ma così intendo, vabbè, se intendi, ed è acceso, proprio zero. Come l'accendo, 3 secondi e già è morto, già pronto. Allora, sento questo altamato, che cos'è? Aspetta, forse la luce, aspetta. Guarda, che sta sbassando. E ora va bene, sentivo questa alternata brutta. Poi forse era la luce. Scappa. Cazzo, comunque bella quella situazione di stamattina. Molto bella, Mi è capitato, ti voglio dire. Luca, quella situazione che mi hai fatto vedere stamattina. La situazione ti ho fatto vedere stamattina. Aspetta, guarda, non me la metto, che mando tanti sui video ogni dito. Già te l'ho detto stamattina che non potevo. Ma infatti cosa ti agito? Fai bene. Fai bene. Il prezzo è non ultimo di bim, perché si vale più del doppio. E alla fin fine, tanto, chi c'è la musica. Ci siamo. Passa un po' di radio. Ora, prova così. Poco di più. Di più aumento? Sì, poco. Così è meglio, va. 1, 2, 3, prova. Ehi, andava. Peccato, vabbè. Se mi avessi dato chi so che mi deve venire, avrei comprato un buruchisso. Cazzo, 20 kg pesa. Oh yeah. Te ne vado a bere, intende isso. A giù ma non cade. Ma pa cosa ti deve appiccare? Madonna, oh. Chi so, ho paura però che copia già che cosa è, no? È pericoloso, eh. E forse c'era qualcuno che stava chiamando poco fa. Forse si è tuffato. Buon da non squarci sul radio, intanto siamo tutti noi. Infatti io ero giù sul radio come a te, ma cosa se no, cazzo, intendo il VRM, almeno quello l'ho eliminato, quelli vicini già li sento. Chi è che stava chiamando avanti? Non sembra nessuno. Si sarà straccato. Oh, perché lo passavamo noi? E gli parlerebbe a te sopra, già lo grido. Ti sei detto cuce miniato. Che ti cuce miniato? Tu mi hai arrivato a me. Cosa ti vuoi sperimentare? E sei arrivato qua a me. Guai a te se tocchi i pulsanti, non si tocca nulla. Brutto brigantino, monellaccio che non sei altro. Parla di qualcosa. Gabriele, bello. Parla. Qua. Sì, parla, parla. Vergognoso è adesso. Prendi il tuo microfono, prendi il mio microfono. Sì, di qualcosa. Prendi, a bu, una scena, si mette a imitarmi, si mette. E a chi vuole educa tutto, di io lo so qui, sono curiosi, capito? Infatti bisogna stare attenti per quello, perché toccano tutto. Ma ho preso questo arranco, come portatile, perché il Maufeng è purtroppo andato, non funziona più. E pensa che andava, assomiglia al Maufeng, però si chiama Arranco, si chiama. Io ho capito, purtroppo io antenna fuori non ne ho più e quindi non avevo sentito di... Avevo solo visto di nuovo e boh. Cazzo, quando c'avevo l'altra antenna era di lusso, vedi? Se la butico di sopra. Oia. Avevo pigliato la palla al basso, a punizia. Yes. Mi servirebbe un dipolo pure per ascoltare, invece no. Cosa puoi fare? Non puoi fare nulla. Un macello è qua. Cappa cappa. Io comunque. No, non ne voglio mettere io, non mi interessa, cioè, mi interessa o non mi interessa. No, non lo buttare così, Gabriele. Mi interessa o non mi interessa, potrei anche metterla, ma non mi interessa. Io ho capito, neanche a me, infatti se no me l'avrei messa un'antenna da qualche parte. A chi sopra, non vi vuoi alzare, a tappato la gabiciuria, ridono. Se magari riesci a fare qualcosa allora ne approfitto e mi faccio mettere un dipolo. Cappa. Sempre un monello fai. Vabbè. Comunque sia già. Cioè, su, va, diciamo. Cosa hai fatto, mamma Roma? Purtroppo è così, almeno mi avrebbe fatto compagnia se avessi avuto l'altra antenna. Tanti no che cazzo è un canale di mochi a vero. Cazzo non entra nessuno, no? Cappa, è meno male che un pochettino esce dal tetto. Cosa? La tua antenna. Ma chi, la tua? La tua, la mia già esce già. E la mia è sopra il torrino, mi. Adesso è sopra il tetto la mia. Ah, che la mia? Allora, la usa te la giusta, Doia, ma è barredosa o è così? Ma cosa, la mia? L'ho visto l'altro giorno, e non c'era vento, agito, ma che ne so, chi è più uscito fuori? Gesù Cristo mio, mira di noi, deve andare a fare la visita per la terapia del dolore. Uscirò il giorno 9 e poi sarà in casa, cosa? Ma c'è cosa dire a dire, vabbè via. Adesso mi tocca metterlo dentro una busta, al limite, e vado con quello. Ma perché ce l'hai... perché te l'hanno messo, dico, questo coso? Ma lo senti perché lo simula? No, me l'hanno messo perché mi si formano dei grumi di sangue e allora ho dolori a vero. Sono finito al pronto soccorso, mi. Grazie. E quelli dell'urologia gli hanno detto cosa farmi. E mi hanno lasciato questo fisso fino al giorno 27 lo devo tenere. Gesù Cristo mio. Ma cadono le ore. Cosa tu? Oh Luca, se avessero qualcosa, poi ho sentito a metà. Ma tu, io. Beh, aspetta, vado a cercare due elastici, che domani devo fare una spedizione, mi servono due elastici. Che ragazza. Allora, ma beh, per quella cosa non si capisce niente ancora. Cosa? Arturo, ho ordinato i cinque pizzi, ho detto che li ordinavo là. Appena mi arrivano li monto e vediamo un po'. Addirittura 5 pezzi si sono guastate. Sto supponendo che siano quelli, però ripeto, senza attrezzatura giusta, poi fino a lì arrivo, poi senza attrezzatura di più non si può fare. Speriamo siano quelli. Vabbè, dai. Vabbè, la radio, faccio questa. Un peccato, veramente un peccato questa radio che non cambia le bande, se no una gannunata, non ce n'è per nessuno. È bella, quella lì, io l'ho vista, è bella quella radio. È un peccato che non c'è le bande laterali. Guarda, è bellissima proprio, pronta, non li devo mettere nulla, né microfoni né niente. Cioè va bene così com'è nata, va bene, e funziona molto molto bene. Il rosso, già l'avevo vista quella lì, è bellissima come radio. Forse il modello, come estetica, è una delle migliori della Cobra. Il rosso, ce l'ho presente che radio è, e che fa solo AM/FM e basta, capito? Ma fai no, mi viene pari bocchi, mianto. Tanto se uno non ha passione per i DX delle bande laterali non se ne fa un cavolo. Ma alla fine li fai in AM, in FM, io ho fatto dei DX con questa che dà paura proprio, che arrivare fortissimo, arrivare fortissimo al di là, cioè proprio bene, una bomba. Poi questa antenna ti devo dire, oh cazzo, che è ottima proprio, no? No, non me ne sono pentito per niente, è veramente ottima e viaggia forte. Io sono contento per te, io manco di ex sto facendo nulla, perché quando si è dolori che non arriva a vai. Oh via, ah, viaggio un po' gargarigati, ma ho pigliato l'antidolorifico. Perché se no gana di Vapidano finne. Pagappa. Ah, grazie a Dio mi da quando l'ha installata Luca, mi ha fatto lui il lavoro. Non temo a dirlo, un bellissimo lavoro, proprio fatto bene. A regola d'arte, lavoro proprio fatto bene, bene, bene. No, non temo a dirlo, va, sempre, sempre perfetto, non mi ha dato mai un problema, non mi ha dato la verità, sempre al top. E infatti, già si vede i nomi, chi non vuole più pulso, quando va a vedere tu, si attende tutto. E dopo tu arrivi in volte, ma io 2 watt sto usando, la potenza minima sto usando, 2 watt. Esce con 2 watt questa radio. Ehi, è piaciuta la quarantena pure, è logico che ci vede. Ah, io la verità, da quando l'abbiamo installata, la volevo mettere un po' più su, più a 6 metri la volevo mettere. Però per il momento la lascio così, per il momento. E ti dirò che mi sta soddisfando parecchio e arrivo un bel forte nei rughi. Sei veramente forte, no, non ho problemi. E infatti, quando uno ci vede, la gara così andava. Appa. E di pura platamona, cosa mi sentiva quando scala arrivavo. Non ti si chiama, ogni tanto entra. Magari Giovanni. Non mi ricordo se è lui, quello che fa il camionista. E è 2. Di gare un voce un bel. Sì, infatti. Se arrivi voce a Edu, figurati. Ah, grazie a Dio, no, non mi posso lamentare. Assolutamente no, non posso lamentarmi. Va bene. Uguale come quella che ti ha vinto, ti ricordi? E cosa? L'antenna, quella che ci hai vinto in passato. Quella che mi si era riempita d'acqua. E precisa chissà. E quelle pompano, non te la bella così. Ma a me no, non è mai successo. E qualcuno era difettosa, deve essere. È successo a più di una persona. E ce l'hanno dovuto dirampare. Però pompano come antenne, se sono a posto pompano. È sempre una 5 ottavi, mi. Si pompa, le volte. Ma pompa vero, bel uomo. Io mi abito, come ti chi ci tu, sta tenendo tutto in oggi. Gappa, gappa. No, adesso sono contento, la verità. Molto, molto contento. Molto. Mi trovo benissimo. Sì, infatti. Una volta che ci ha fatto la posizione chiusa, che per Tadave sia dama. E ce l'ha che è uguale per poche parole, però della Midland. Oh! Ce l'ha 10 anni ce l'ha coso. Come si chiama? Ma Marco. Ed è precisa, mi cambia solo che io ho quella, quel coso in punta, ho quei manicotti là. Oh! In plastica. Cambia solo quello, cambia. C'ha 10 anni. Ma lo so, Marcolino ce l'ha uguale. A me cosa mi si pianava la bobina d'Eva e salivano a fondo scalare stazionari. No, qua non è mai successo. E speriamo che non succeda mai. Marco, l'altro amico nostro, ce l'aveva uguale, così gli è successa la stessa cosa a me, ce l'ha dovuta buttare. Cazzo. Normalmente qua tra gli enti della lampada, ma cosa proprio di fare un difetto. E noi che non l'abbiamo vulcanizzata, ecco, nulla, era fatta vera l'antenna mia, eppure cazzo, entrava leva. O che mi si era ostruito il buco dove scola l'acqua, che ne so. Però come pioveva, cazzo, salivano le stazionarie a fondo scala. No, qua no, non l'ha mai fatto. Sì, poco a poco di più con l'umidità, ma niente di che. Io ho capito. Papà, grazie a Dio, quanto ce l'ho montata già? Può essere un più di 6 mesi, 7 mesi, non lo so. Io su per giù, ma da quando l'hai piazzata arrivi sempre con lo scala qua. Cos'era morto? Ne è un paio di mesi Sara, un mese Sara, non me lo ricordo. La pola l'avevo montata subito, ne avevo scelto la Ringo che andava bene, volevo una 5 ottavi, mi sono messo quella. La cantante andava bene, la Ringo che va via io, però non era quella ultima, era la vecchia era. Sì, lo so, però adesso arrivi sparato qua. Questa qui, non vuoi solo che è la Ringo. Sì, la pompava burughita già, ma era sorse. La mia funzionava bene, la mia esce a volte. Sì, già lo so, però questa qui è superiore. Oh, non ce n'è. E il problema è che sei vincolato, che non puoi ascoltare altro. Casino e ghisso. Lo casino e ghisso, Luca. A chi se no mi aveva fatto compagnia, mi aveva fatto. Hai compreso? Sono vincolato che ho questa antenna e di là è sorda, che io l'ho provata ed è sorda, arrivano bassi. Io l'antenna giù e basta. Ma lo sai che mi hanno detto che questa qua ascolta molto? E non me lo ricordo se quella ascoltava dove dovevo ascoltare io. Però questa qui è sorda, questa che ho io. Non si intendi da chi si bassi. Devo provare col mio portatilino, devo provare, perché mi ha detto una persona che lui ce l'aveva ed ascoltava bene. Ma io c'ho anche il ricevitore qua, in strada con l'antenna sua li ascoltavo, in oggi manco baricati, vivo l'antenna e blu. Oh, comunque mi ha detto una persona che questa è molto più aperta di banda, quindi ascolta bene. Devo trovare. provare l'attacco che ce l'avevo, voglio provare con l'antenna del tetto. Se faccio a fare l'attacco, vedere se ce l'ho dato in magazzino o qualche parte. E provare a vedere se ascolta. Perché mi ha detto una persona mi ha detto che lui ce l'aveva e ascoltava tutto, molto aperta di banda, capito? Avanti lui. E fa 26, 28, 29, dai. Mi aspetta, sto cercando una cosa. No, ma anche, mi hanno detto anche VHF, dice che ascolta. Aspetta che c'è un bizzino allucinante. Qua apri il mobile, va. Lascia stare il mobile, me ne lampadure va in terra, burro. Gabriele Briconcello. Pensi che c'è un terremoto, non è un bambino. Che terremoto. Briconcello, Gabriele. Vero che c'è un briccone. Lascia stare le cose che non ti interessano, che fai la bua ti fai. Non mi credi tu, guarda che me ne ha fatto tutta l'erba in terra. Allora, è incredibile. Tu ti ricordo che te ne combina Natale. Sì, minori, non lo sai, è curioso questo cattutto. E poco ti fa. Anzi, ti diciamo beh attento Burundi, sono vicino. A come ci dici di tutti. Ho dovuto chiudere la porta di casa, ha ciappato un metro da babri, ma dimmi tu. Io di piccolino c'ho il cane qua, lo vedi? Cazzo, la visita a biscomotori l'hanno fatto, ma che vada a quel paese, infatti già si vede che si fa che cosa, sì, è risultato che è superiore alla sua, c'ha l'intelligenza superiore alla sua etaccia. Immaginiamoci cosa è. Di Rumantenghia. Adesso vengo lì e ti piglia sculaccioni, mi. Gabriele. Scusa Natale, ma mi ha fatto il curriculum in Tommaco. Sì, me lo posso immaginare. Cioè, se posso, a curri se posso, mamma mia, qua. A chi tutti i stracchi di Yuga? Invece non si stracca Marasussi. Ma qua si può andare a Natale, ecco. Santo di babbo, d'olio. Sempre appiccato, sempre appiccato. Ma tu calo portatile. Ma che dici con la favidà? E la cerchiamo favidendi. Ha già fatto. Se vuoi tu, con la porta a testa. A buge, buge, buge, buge, a buge, già, già, già, già. Dopo avvidammo di Zuglia, va. Ma imparerà a favidà. È una scena, ma ti dico no, è combina. C'è un briconcello, quel Gabriele. Eppure voglio provare qualche dia, non è sciarà come inter radio, però magari ascolta, capito? Ehi, con la manto ascoltavo io. Se non volevo mettere, che io ce l'avevo le antenne che andavano per lì, però con la mantova ascoltavo lo stesso. Dici che chi c'è la mantova si goza, gente che ve l'ha avuta, dici che accorta. Ma questa è una cosa. Cosa? Sì, sto facendo un casino. Stai fermo! Che cosa Luca? No, Natalì, mi ha detto una cosa Luca. Ho detto sì che l'ho visto. Vedi, sai quanto è comodo. Chi sei di nuovo, ma te lo scarichi nel computer, nel telefono, io ce l'ho anche nel telefono. È una cannonata, funziona bene, molto molto bene. Io me lo posso immaginare. No, basta non si intende il casino lavora oggi. Invece che sono tutte rintanate, non arrivano. Che anni doppio whisky. È sempre cantenne, tabù si lamenta che non entra nessuno. A me è bello da già pusha. Ma lo aiusino. Lasciate accusciente, quando non ve nessuno, dopo il già mai ti dice, non c'è mai nessuno. Lasciate accusciente, poi bell'onfio. Niente, no. Ma è così. No, che paghi subito, rugando, si buona cantare, quando non c'è nessuno, attendi che si applicazione, che va e dove si buona cantare. Via da cantare, cosa vuoi ti dire? Beh, facciamo a due sfondo, dai. Che paghebbe. Beh, un altro microfono, vabbè, pazienza. E anche il marizioso mi. Ma ti immagini il santo nome, mica marizioso vero mi. Ma non si ha forza, so, perché poi non è essere, non sai che deve essere il mestiere. E tu? Sì, ma mi tocca rock, ma troppo. Prendo l'antenna, lascia il volo che prende l'antenna. Ma è un parolone, buro. Cioè, non è così. Gabriele, accorda l'antenna a tu. Tira quel filo nero. Ma accordati i giocattoli, vai, con l'antenna. Ma veramente. Vai, tocca l'asinello, caro caro, vai. E non penso perché l'ho mandato via, ma me la bufurendi, semmo cosa. Hola, hola. Luca, ma quello lì cosa deve stare? Sganciato o agganciato? Il coso, le... me l'ha toccato, me l'ha... A VG. Lascialo così, sì. Sganciato? In AVG metti. In AVG aumenta. Cosa devi fare, cosa devi misurare, capito? Cosa devi fare? Basta, che intanto non è stazionario. Vai, sì. Hola, hola. Sì, invece diverso, ma non viene a stazionare, ma così muove, cioè si muove un po' che boh. Metti modalità power e lo tieni, e tieni premuto il pulsante che c'è. Modalità power? Sì, c'è il tastino in power, se non devi controllare la stazione lo metti in potenza, così vedi la potenza che stai usando. No, io quello già lo so. Che legata. Cappa. Sempre Duquende. Cazzo, io c'ho quel frequenzimetro professionale. L'avevi visto, Luca? E dice, beh, davvero, dice dai a me. Te lo posso anche dare, cosa... Io non ne uso, no, intanto. Mica sono tecnico, no? Troviamo l'accordo. Comunque l'accordatore, beh, non... Cosa? Troviamo l'accordo, ho detto, non con l'accordatore, però. Pensa a quegli adori. Non avevo stazionare intanto, no. Ma lei c'è i gemelli diversi. Oh, signore, mamma mia. Speriamo che non mi venga a tornare il dolore, maledizione, lo può. Gesù. E che fa terapia del dolore che devi fare, lo sai? E ti danno questi farmaci che ti eliminano il dolore. Cazzo. Ma durori, bello, non lo puoi spulsare, cazzo. Ma salta la gamba? No. Vicino allo stomaco ti viene il dolore. Cazzo, non lo puoi spulsare. Che pittina. Cazzarola, un dannaggio, eh. Se non ha già provato a giungarsi, buona tira di cose. Signore, due. Ma avete notato che non è mancata più leva? Ti sono venuto a pubblicare tutto su Facebook. Non lo stai seguendo, Danilo? Ma da quando lui si indagò l'ha tirato di bene, un po' caretto, si sono calmate. E fa niente per due, la zarra, animal. E allora, però ho visto questo sindaco si è puntato, ha fatto il suo dovere, e l'acqua, ha visto che i guasti sono finiti. E io vado in bocca a pulso, visto che vira da buoni a pulso. Cazzo, sempre leva mancava, mamma mia, cazzo. Caso strano, sì, magari fra cacche di, magari potrebbero anche farlo per far vedere cosa, però hai visto che non manca più come te prima, da quando l'ha detto di così già rido. Evidentemente l'hanno messa a posto la storia, vuol dire che l'hanno grosso. Ah, è male che vorrei nel futuro, vorrei nel truffato, chi dice? Ma come fai a mettere mano sempre nella stessa condotta, poi? Allora, la Madonnina non è papidemo, no? La Nibucinovri dubbi sono sempre a brandichivi. E no, che la chiesetta Nibucinovri dubbi e la ne abito la Bobudorra. Io che ho i cuori, la ne... che è lo stesso della, della chiesetta, ma te si dubbo, tanto la salute non è più. Ogni fontana che vera, cioè ma io non lo so, tubi nuovi, che bisogna io ho tubi di 30 anni fa che ancora in ottime condizioni, e che si sono sempre a prendere i tubi nuovi. Ma che non mi va in giro? E anche la, appunto è stato così da quella verità, adesso tutte le riparazioni nei tubi nuovi, da oggi in poi ve le pagate voi. Tempo e personale. Sì, ma mi sa che la minaccia di verme. Hai visto che ci sono più altri viti? Quando è troppo sì, infatti, pure da Capani Sarrata tutta la ricca c'è un casino. Io penso mio che c'era una barzelletta a bar. Non so, Puglia, uno aveva bisogno di lavare, se non si poteva lavare. Sì, su cazzo, con i vitaloni erano i nuovi nonni. Pure io, ma come arrivo nell'automobile l'ultima volta? Sono andato con la moto e me l'ho pigliata. E sono si bussi. Cappa. Allora mi hanno dato una dritta oggi, voglio vedere. Non va a mangiare, se mi tengono il bambino vado un attimino a trovarle, che una dritta buona mi hanno dato. Cappa. Ma il bonus fatto le donne? Cosa? Il bonus? Sì che l'ho fatto. Ecco, aspetta un attimo, devo fare una telefonata allora. Hanno dato una dritta, domani a Manzano. Se ve la posso basso, se mi dai un'oretta rubizzino. Passo un attimino e vedo un po' se... Cazzo, in chi mi occupa davvero, eh? Che non si abbarri due, si abbarri la dritta, mi tu. Ma speriamo di no, ma mi ha camera dito non mi ha detto Vauri. Meglio, meglio. Se si occupa davvero, cioè... Posso solo romanzano. Piglio un bel poco. Piglio un bel poco, piglio. Sto bene, sto. Piremmo. Voglio comprendere come è che sta la storia. A me, giocando con un coso, con l'asinello stanno. Tu cos'è il cavallino, asinello, cos'è questo coso? Chi è avanti? Chi è questo con questo bipi brutto? Ah, è un male bombetta. A chi c'è un bipi bombetta? Oh Marco, voi due, mi pare Marco forse. Marcolino, non entri no, puzzinoso. Mi sta già mandando un messaggio lume, a cosa mi vuole, cosa di tipo di travaglio è me. E se io sento in chi vi ha già fatto dritti, ce la metterò tutta, ce la metterò tutta. Tutta dentro. Non ne devi da caffura, no? No, se mi propongono questo tipo di lavoro non mi pare vero, ma conosco pure a notte, sto rendendo esico di Manzano. Lo so. Le dura. Magari che c'è un casino. Qualcuno vuole entrare? Oh Luca, ma oh... Ma Natale mi sente? Sì, signore. No, io non ho sentito nulla, la verità. E non apro di squelci. Che arrivi, arrivi, e che non arrivi, ci cazzi. Mamma mia, gaba, mi dà quello ventilatore. Lascia stare il ventilatore che mi spacchi tutto. Cazzo, beato che durende me. Fuori da lì, gioca con il cavallino, vai. Cioè, è allucinante. Che sì. E ha detto tra, cazzo mi faccia un ventilatore. Chi sei un briccone che subizzino. Ma nell'accio quel Gabriele. Papà, buonasera. Buonasera a lei. E allora, c'è qualcuno stasera, manco mai. Ci siamo già. Siamo tutti qui. Tutti per te siamo, mi ciao già. Ciao. Io preferisco le donne. Mamma mia, mi ha la bicciambadu sponda. Non penso proprio. Io sempre la stessa sponda. Si può abbassare, ma sempre la stessa è. Ma non mi so via, a me me l'ha detto Luca. Luca te l'ha detto. E allora? E Luca li sviluppi di così. Non sarà Edo che ci ha ambato. Mica la verità, mi già, che non lo dica, allora ti piace un altro microfono, eh? Certo, sei sempre già attento, non entri mai in radio, effettivamente io non vengo mai nessuno. Ma forza, chi si sta attendendo un altro microfono? Dì la verità almeno. No, io entro, è che non risponde nessuno, e tu lo sai, perché anche ieri mi hai sentito e non mi hai risposto. Ma l'hai letto, poi non mi hai riposo tu. Ma se bisogna dare tre un qualche no? Io, vabbè, stavo cantando, dico la verità. Stavo cantando e poi stavamo dicevai. Nelle stanze. Allora faccio ragioni, Digli che hai preso un'altra strada. Natale non si bagliendi, ma avanti Natale. Ma quello che dico è che il piccolino attaccato alle cuffie, quindi non è che sia niente di che. Invece quello che usi tu è di tipo MC60. Che cosa? Ci su, allora farò di vari microfoni, mi. Un microfono sì, Ancora, avanti. Ehi capo, io ti mi fai girare un capo. Ah, oh, mamma mia, ga. Cioè, ma tu che hai tutto, ma fai un macello e non più trento. Ma mi sono così, anzi, ma buco di va, devi sopportarlo. Purtroppo il figlio l'hai voluto e lo devi sopportare. Tu ma non hai parlato il ventilatore. Sta posto di male che tra. Non pensavo che ti attori ci faccia la mano, quello lì è più grave, devi stare attento, mettiglielo in alto dove lui non ci arriva, sopra un mobile, cioè, in modo che lui non ci arrivi a toccarlo. No, non entrano le mani, c'ha le griglie piccoline. Ah, ma ci ha fatto tracciare la traccia, vuol dire che l'ha toccata l'avvento. Non ha toccato l'avvento, ha toccato un meccanismo che era gli rende. Invece attorno anche tu io gioco quasi una ghida e più forse vero? Con tosse, raffreddore dall'aria condizionata, macribando. Anzi adesso sto prendendo queste gocce per la gola e mi stanno facendo bene, ma prima non parlavo nemmeno, non c'avevo voce. Lo so cogliamo già. Cazzarola. A base cuccato in terra. Mamma mia, ga. E la salva. Non è agile coso box. E ma perché mi si che riesca? Non vuole. Perché si sente in gabbia. E tu ha di duca tutto, di faccia tutto. Oh, ma io non diventavo come te quando ero minore di due, io mica ti ho fatto copiare la radio che non ho doglio. Tu invece gioca più dentro la box, lui gioca pure. Sì, lo dico da capo.